non è successo, giuro mai non sono stato con lei, lo sai. E allora guardo un po' più in là, persino Giacomo lo sa, lo chiamo e sento che non mi va di dire tutte in novità, Andrea si sposa con quella che ha conosciuto al pub e restare seduta qua. Piove fuori e ormai sono quasi già le sei, per me nanna come gramo sei dentro i fondi del caffè, per me, per me, magari lei te massacrerà. Però che strano, poco fa non esser più quella cui sorridevi felice al bar. Per come stavo seduta, piove fuori ormai.